essere seguita se non si è alterati, perché diventa fastidiosa. La musica techno, perché sia tale, va dai 150 ai 200 BPM, che sono i battiti al minuto. Al minuto. Techno, techno, al minuto. Il battito della musica non può essere seguita se non si è alterati, perché diventa fastidioso. Perché sia tale, tale, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, la musica tecno, perché sia tale, tale, va dai 150 ai 200 BPM, che sono i battiti al minuto, al minuto. Tecno, tecno, tecno, al minuto. Il battito della musica non può essere seguita se non si è alterato, perché diventa fastidioso. Perché sia tale? Tale, tale, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno, tecno,